FM. Formazione dei Giant, mi segnalano Vini da Cinisello che oltre ai Mister Mister oggi compie anche Joe Cocker, già fatto, quindi ciò vuol dire che ti sei sintonizzato da poco, perché il primo compleanno che abbiamo segnalato è stato proprio quello di Joe Cocker. Un salutone E un abbraccio anche a Filippo da Milano, anche al nuovo ascoltatore che si firma Jay, soltanto Jay, dice destinato a diventare orfano purtroppo perché non mettete qualcosa dai White Lion, saranno in scaletta dopo, quindi li ritroverai, avrai modo di ascoltare. Cara Anna da Firenze, no, ieri non ho parlato del compleanno di Trent Reznor, mi dispiace, e un salutone anche a Gianluca, sempre dalla città di Firenze. 10:06, siete su Rock FM, è tempo di Van Halen, qui con la voce di Sammy Hagar ad interpretare le note di questa canzone intitolata Love Walks In. Yeah. In precedenza si sono aggiudicati, visto che non li avevo citati, i biglietti per il concerto di domani di Taria, Sandrino e Matteo, e poi nell'ultima ora regalerò gli ultimi due a disposizione. Tra breve invece, dopo questo nostro Trisdassi, avrò modo di regalarvi il videogame della settimana. Se avete sentito ieri, il videogame sarà ed è legato alla console Xbox 360 ed è Viking. Ma il tempo prima di gustarci questa Little Fighter per i Wild Lion, Simple Man, l'originale di Lynyrd Skynyrd, e chiudere con una balla dei Poison. Crying tonight, I feel alright. I tell the world that you are down on your luck. You're one of a kind. Simple Man, Lena Scanlon e non Free Bird, ma per oggi è il tuo compleanno, infatti dice grazie Marco, così cita l'SMS, per il regalo più bello, è proprio Free Bird, oggi che compio gli anni, buona giornata Perla, era Simple Man comunque, un po' differente, il gruppo è lo stesso, in effetti il nostro amico Ivan dice, ma mi sembra un po' simile questa canzone a Always Somewhere degli Scorpions, in effetti alcune affinità ci possono essere. Buona giornata anche a te, un saluto ad André e spazio ai Poison. Well, I see him on the TV preaching about the promised lands. He tells me believing Jesus steals the money from my hands. Some say he was a good man. Lord, I think he's sinning. Yeah. War on a foreign shore to find his country and to want him back. The focus took his best friends in Saigon. Our Lord has took his wife, his kids, no regrets. Any time I don't remember, and a war he can't forget. He cried, forgive me for what I'd done there, 'cause I never meant the things I did. Something to believe in. If there's a Lord above, I give me something to believe in. Oh, my Lord, arise. My best friend died a lonely man, some Palm Springs hotel room. I got the call last Christmas Eve and they told me the news. Not to break down and cry as tears roll down my face. I felt so cold and empty, like a lost soul out of place. And the mirror, mirror on the wall, see my smiling face again. I give myself something to believe. On a cold dark street, like bodies in an old bone grave. Underneath the broken old neon sign, used to read Jesus says. Give me something to believe in. Grazie ai Poison, tra non molto lo spazio di Tour de Force, vi lascio a questa band anni 70s, anni 70, con la loro versione originale di Gamma Ray. Si chiamano, o si chiamavano, visto che mi sembra che non siano più in attività da anni, Birth Control. The ballless parade was irony, hunger, and corruption. The Eastern world, and the Africans too, are going to repeat the history of our wars. And our industry supplied them with arms. Everybody knows, but apparently nobody can do anything against it. For our society is on the make. Sometimes I try to draw up a list. I try to find out what death has done. I thought of all the rebel murderers, you know, like yours and my rebel rousers. Complexions of the whole human race. We all will turn to chocolate.